perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sono talmente seria questa questione dei soldi, caro Mauro, che noi ci siamo inventati qualche anno fa Investire Informati, l'abbiamo piazzata questa rubrica il giovedì e oggi, essendo giovedì, ci ritorniamo. Quindi tanti consigli importanti su risparmio e investimenti partendo dall'attualità finanziaria. E quindi già due informazioni importanti. La prima è che oggi è giovedì, perché magari qualcuno non se ne raccorge. Abbiamo all'orizzonte il fine settimana. Noi glielo ricordiamo. E poi appunto Investire Informati, cioè capire come mettere i nostri soldi e dove e come evitare magari anche qualche brutta sorpresa, esatto, in qualche modo. No, tra l'altro, se vogliamo documentarci, informarci, abbiamo un'occasione ghiotta, perché la prossima settimana è una settimana importante che si celebra, direi, a livello mondiale, per cui ce la siamo portata anche in Italia. Sì, perché ci sarà la settimana mondiale dell'investitore, comincia lunedì 2 ottobre, andrà avanti fino all'8 e sono 7 giorni dedicati all'educazione finanziaria. Sai, Deborah, che si dice sempre, noi italiani siamo debolucci, io mi sento deboluccio ad esempio. Tu sei un po' cagionevole di salute in questi giorni. No, in educazione finanziaria volevo dire. Sì, però dire. Sei il re del fisco, per cui possiamo reciprocamente insegnarci qualcosa. Allora, guarda, intanto se i nostri ascoltatori hanno dubbi, cose da chiedere, chiarimenti tipo generale, chiaramente non stiamo fornendo una consulenza, ma i numeri sono i soliti. Allora, per intervenire in diretta 800 24 00 24, oppure volete mandarci un SMS, un WhatsApp, allora 349 238 6666. Esatto. Se volete anche scriverci una mail, noi siamo contenti uguale, duedidenari@radio24.it. ecco, magari possiamo farci raccontare questa mattina se in famiglia si sta discutendo di scelte importanti, di progetti finanziari importanti. Condivideteli con noi, ne discuteremo con il nostro ospite di Investire Informati di questa mattina. Ma prima di tutto, però, Mauro, io vorrei fare una capatina a Napoli oggi. Andiamoci. Sei d'accordo? Napoli, Napoli. Certo che lì davanti all'Hotel Britannique sarà adesso tutto lindo, pulito, ci si potrà mangiare a terra praticamente. Ma perché parliamo dell'Hotel Britannique? Perché come hai potuto leggere sul Sole 24 Ore, ma forse l'hai già ascoltato ieri a Focus Economia, con Gianni Trovati, con il brillante Gianni Trovati. Ecco, c'è stata una decisione di Cassazione sul fatto che l'Hotel Britannique appunto ha chiesto la riduzione della tassa rifiuti. Ha detto: io anziché pagare 100 pago il 40. Riduzione al 40%. È andato fino in Cassazione, perché commissione tributaria provinciale, poi regionale, è arrivato fino in Cassazione. La Cassazione ha detto cosa? Ha detto: vabbè, decida il giudice di merito, però il ricorso del contribuente è fondato. La riduzione ha tutti i motivi per essere concessa. Era una situazione, mi pare, del 2008, quando l'emergenza rifiuti a Napoli era ai suoi massimi storici, direi. Esattamente. Perché? Allora, bisogna sapere questo, detto molto molto brevemente, che la possibilità di ridurre al 40% la tassa rifiuti esiste dal 93, dalla norma madre di tutte le tasse rifiuti, e che questa possibilità però deve essere, come dire, deve basarsi su delle situazioni acclarate, ad esempio uno stato di emergenza di tipo sanitario, per cui non basta, per capirci, lo sciopero dei netturbini di 2 giorni per sostenere che c'è un'emergenza rifiuti. Infatti deve essere qualcosa di un po' più importante. E per questo la causa si è trascinata fino in Cassazione. Adesso la Cassazione ha detto: no, beh, il contribuente ha tutte le ragioni di questo mondo, lì c'era effettivamente un grave disagio, allora valuti a questo punto il giudice del rinvio, anche accertando proprio la situazione lì, davanti a quell'albergo, se c'era il motivo del 40%. Certo. Ma se questo caso dovesse fare scuola, a Roma adesso si scateneranno. Ecco, bisogna però raffreddare un po' gli entusiasmi. Non parliamo di raffreddore stamattina, che già tu sei abbastanza, sono già io un po' ricco raffreddato, di esperienza, ecco. Però raffreddo anche gli entusiasmi degli ascoltatori. No, allora ribadisco, ci vuole una situazione di emergenza acclarata, non bastano gli articoli di giornale, anche se dicono che ci sono dei punti di degrado. Potrebbe darsi, da quello che si evince la sentenza di Cassazione, che se ci sono delle zone della città particolarmente degradate da questo punto di vista, allora uno possa fare il ricorso. Tenete presente che potrebbe farlo lo stesso comune, di ridurvi al 40% il prelievo. Sensibilizzato da una gestione dei rifiuti non proprio brillante, magari dice: se prima che facciate una montagna di ricorsi, ci penso io, vi alleggerisco. Puoi immaginare, Debora, che già il comune, avendo problemi di emergenza, figurati, anche ridurre gli introiti della tassa rifiuti. Anzi, piuttosto vi aumento, siccome ho bisogno di mettere qualche uomo in più a ripulire le strade, sapete che c'è, ve l'aumento la tassa. Detto questo, comunque, vi raccomando la pagina del Sole 24 Ore di questa mattina: l'emergenza rifiuti taglia la TARSU. E magari, siccome proprio queste sono le settimane in cui si pagano queste imposte, anche noi contribuenti, magari settimana prossima ci ritorniamo. Che dici? Non ho detto, certamente, ma non ho detto una cosa importante: se ritenete di essere in questa situazione, allora sostanzialmente si impugna l'atto di pagamento, cioè si porta in commissione tributaria l'atto di pagamento con cui il comune vi chiede la tassa rifiuti. Attenzione però che se perdete poi sono dolori, perché oltre alla tassa ci sono spese e sanzioni, quindi considerate bene come siete messi. Raccomandiamo di fare, insomma, non ci avventuriamo sul terreno dei ricorsi e delle contestazioni, perché non è detto che come dire, sia una scelta che si conclude in maniera sempre vincente. Grazie Mauro. Allora adesso direi, tra l'altro vedo già delle persone che ci stanno scrivendo, a cominciare da Giuseppe che segnala che ci sta vedendo su Facebook, per cui lo salutiamo. Grazie, direttamente. Bello lo studio, anche bello vedervi in video e non solo in radio, perché lui ci vedeva anche in radio evidentemente, Giuseppe, naturalmente stiamo scherzando. Un altro ascoltatore invece ci segnala che la sua banca gli ha proposto un accantonamento che si chiama portafoglio moderato. Voi che cosa ne pensate? Beh, bisognerebbe vedere qualche dettaglio in più, questa informazione solo non ci basta, però abbiamo capito che gli ascoltatori hanno percepito di che cosa parliamo questa mattina ad Investire Informati. Investire Informati. Allora, caro Mauro, cosa ci stanno raccontando i mercati, ma anche i risparmiatori in questo periodo? Abbiamo un autunno che si prospetta ricco di sfide, ma naturalmente per chi lavora nel mondo del risparmio in maniera professionale, il mercato è anche ricco di opportunità. Abbiamo un quadro di riferimento complesso, ha tutte le sue incognite. Non ci dimentichiamo peraltro che in queste settimane, materia ricca per il Sole 24 Ore, stiamo preparando, non noi ma il governo, insomma, la legge di bilancio, e quindi poi da quando ce l'avremo in mano andremo avanti per settimane a raccontarla in tutti i dettagli. Se dovessimo guardare a tutte le indiscrezioni che sono partite già da agosto e arrivano poi a tutto settembre, questa legge di bilancio dovrebbe essere ampia come un paio di volumi della Treccani, ma non credo che ci starà proprio tutto quello che ci aspettiamo. Basta che non arrivino altre brutte sorprese per i contribuenti, perché poi se devono pagare più tasse magari risparmiano di meno, e questo è un peccato. Dobbiamo guardare oltre alle vicende domestiche anche a quelle internazionali. C'è molto fermento politico, in particolare questo è un tema che condiziona molto i mercati finanziari. Abbiamo un weekend con un altro appuntamento politico, il referendum per l'indipendenza della Catalogna, quindi lunedì vedremo che impatto avrà l'esito sui mercati finanziari. E allora, in questi che sono sempre gli scenari nei quali siamo nostro malgrado catapultati, non ci dobbiamo dimenticare di tenere la barra dritta sui nostri obiettivi personali e familiari. E pare proprio, non lo dobbiamo dire però troppo forte, che gli italiani stiano tornando a progettare per sé e per la propria famiglia. Tra l'altro ne abbiamo parlato proprio qualche settimana fa, raccontando... Quindi una tendenza positiva, diciamo, meno accumulazione di risparmio congelato stesso, in qualche modo, esatto, fino a se stesso, ma anche qualche voglia di rischiare in più magari. E infatti, allora sentiamo che cosa ne pensa il nostro ospite questa mattina. È tornato a trovarci Edoardo Fontanarava, direttore sviluppo e gestione prodotti di Banca Mediolanum. Ben trovato, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti quanti. Allora, ribadiamo il numero verde per intervenire in diretta su questo tema, è sempre l'800 24 00 24. Qual è il vostro spirito quando risparmiate? Lo fate, come dicevo prima, con la logica del lungo periodo, del progetto di vita, del progetto finanziario che coinvolge voi stessi e tutta la famiglia, oppure ancora siete condizionati dalla logica del breve termine? Quanto mi dai, si chiede al consulente. Il consulente gliene sente molto frustrato davanti a questa domanda. Allora, una recente indagine di Einaudi sul risparmio delle famiglie dava la percezione che, appunto, noi italiani abbiamo voglia, come dicevi, di ripartire, di mettere qualcosa anche da parte sul rischio, non solo appunto in chiave difensiva. Allora, il segnale sembra univoco sul 2017, le famiglie che sono in grado di risparmiare risultano in crescita dal 40 al 43.4%. Quindi, insomma, questa crescita di cosiddetti risparmiatori intenzionali. Guarda, senti come sono preparato, ho anche imparato risparmiatore intenzionale. Ecco, rispetto al non intenzionale, che non so, è uno che vince al Superenalotto, un non intenzionale. Non lo so, lo chiediamo al nostro ospite. Adesso lo chiediamo al dottor Rava. Allora dice che appunto stiamo tornando a progettare, ma a voi risulta, dottor Rava? Allora sì, sicuramente bisogna fare una distinzione. Si è parlato della maggiore capacità di accumulo dei risparmiatori in questo periodo rispetto a quello che è successo in precedenza, però appunto riprendendo il tema dell'intenzionale e non intenzionale, in realtà l'80% del risparmio è ancora una forma di accumulo, quindi non va in delle logiche di progettualità e obiettivi. Quindi potremmo dire che l'80% lo fa non intenzionalmente, nel senso che riesce a spendere meno di quello che guadagna e mette da parte. Dall'altro lato, le logiche di progettualità stanno aumentando, ma sono ancora molto basse rispetto a quello che è l'obiettivo e il modo corretto sostanzialmente di farlo. La ricerca Einaudi peraltro ha evidenziato moltissimi aspetti interessanti. Io partirei da uno, partendo proprio dalla logica della progettualità, che è proprio quello della ricerca sostanzialmente di progettualità e quindi costruire sostanzialmente attraverso il risparmio degli obiettivi, che è evidenziato però da alcuni dati che sono un po' contraddittori. Il 37% degli intervistati dichiara sostanzialmente di tenere ancora prevalentemente in liquidità, però il 63% dichiara di avere un orizzonte temporale inferiore ai 3 anni. E qui c'è il primo problema nella logica della progettualità. La progettualità ha sempre un orizzonte temporale. Quindi la difficoltà maggiore per i risparmiatori è cercare di fissare correttamente l'orizzonte temporale. Potremmo semplificarla come punto di partenza in una logica di formula, adesso un modo molto semplificato della logica dell'investimento. Devo definire l'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo ho un elemento che è il tempo, un altro elemento che è la capacità di risparmio, che si moltiplicano tra di loro, al quale devo sottrarre ovviamente la logica del rischio, della volatilità e di quanto c'è. Se io riuscissi a utilizzare questi 3 elementi, potrei realmente costruire una logica di pianificazione secondo degli obiettivi. Un po' una sorta di metodo per raggiungere gli obiettivi finanziari, dottor Fontanarava, perché anche per fare quel lavoro effettivamente un po' di metodo bisogna metterlo in campo, e anche la famiglia o l'individuo devono abituarsi ad agire secondo questa modalità. Non è sempre facile, perché poi naturalmente gli scossoni di mercato sono sempre dietro l'angolo, affrontarli non siamo sempre preparati e quindi il metodo salta, no? A volte. Io sono curioso di sapere una cosa, dottor Fontanarava. Il momento, gli anni trascorsi, speriamo di esserceli lasciati alle spalle, sono stati caratterizzati soprattutto da un risparmio per difendersi dalla paura del futuro, perché la crisi ha davvero picchiato duro su tutti noi, con anche perdita di posti di lavoro, ma anche solo congelamenti della disponibilità economica per tutti quanti. Allora mi chiedo se in questo momento questa propensione maggiore al rischio si sta orientando su qualcosa, che so, gli immobili piuttosto che gli studi dei figli o altri fattori che vedete come trainanti per le indicazioni di risparmio degli italiani. Allora sì, sicuramente c'è stato un cambiamento significativo nella modalità di risparmio della popolazione italiana, nel senso una fortissima riduzione di quelli che sono gli strumenti obbligazionari. Questo è più effetto di un aspetto di offerta che non di domanda, nel senso che se noi guardiamo le obbligazioni e quindi quello che gli italiani hanno fatto per 60 anni precedentemente, quindi di costruire una pianificazione attraverso tante piccole azioni di breve, quindi prendo l'obbligazione, la costruisco, oggi con rendimenti negativi lì non hanno più trovato corrispondenza e capacità sostanzialmente. Diciamo che per lungo periodo la casa e il titolo di Stato hanno esaudito tutte le richieste e le necessità di risparmio. Assolutamente, la casa sicuramente rimane un elemento centrale, teniamo conto che poi la casa rappresenta 2 volte il PIL italiano in termini di ricchezza della popolazione italiana e rimane importante, e appena c'è stato un pochettino di respiro rispetto alla difficoltà e alla preoccupazione ha ripreso anche il mercato immobiliare in modo significativo. Sull'aspetto del risparmio teniamo conto che noi abbiamo ancora la stragrande maggioranza del patrimonio degli italiani in liquidità, quindi anche loro dichiarano sostanzialmente di avere un 84% i clienti intervistati di liquidità nel loro portafoglio, dall'altro lato auspicano un 61%, quindi c'è la consapevolezza della necessità di cambiare qualcosa che vede ancora nei portafogli però dei clienti oltre il 25% di obbligazioni e appunto una parte importantissima della liquidità. La difficoltà sta nell'incapacità di farlo in autonomia, nel momento in cui io dico sì, ho intenzione di investire in modo più strutturato, però mi do un orizzonte di 3 anni, sto creando una contraddizione rispetto all'utilizzo corretto degli strumenti. In questo senso c'è un rischio, se vogliamo vedere un aspetto non così positivo dell'aumento del risparmio gestito, di quanto questo risparmio gestito sia consapevole. C'è una domanda della ricerca che avete citato prima che mi ha colpito, che è quella alla quale i clienti hanno risposto dicendo che nel 46% dei casi la scelta del risparmio gestito è una forma di deresponsabilizzazione personale rispetto agli obiettivi. Allora, in questo senso, tornando un attimino all'approccio e al metodo, l'elemento più importante, forse il più difficile da approcciare, è prima ancora di guardare il prodotto o la soluzione, definire gli obiettivi. Noi cerchiamo di veicolare verso i nostri clienti un approccio, una strategia che non parta dal prodotto e quindi dal rendimento, perché la domanda la fanno anche a noi sempre: che cosa mi dai come primo elemento? E la risposta... Sì, bello tutto questo ragionamento sui progetti, ma che quanto mi dai? Esatto. Ecco, alla fine si... E la risposta che cerchiamo di dare è: ok, prima fammi capire quali sono i tuoi progetti. Studio dei figli, seconda casa, vacanze, elementi. E cercando di aiutare il cliente in un percorso che si fa insieme nel definire il corretto orizzonte temporale. L'orizzonte temporale e il tempo negli investimenti sono l'elemento chiave. Se io posiziono il tempo correttamente, poi ho maggiore facilità nell'affrontare emotivamente tutto quello che succede sui mercati oggi, che spaventa molto poi i clienti. Esatto, ecco, cioè... Ma tra l'altro, dottor Fontanarrava, proprio a proposito di questo, secondo lei darsi un obiettivo di vita, dare un nome all'obiettivo finanziario, chiamare con un nome e un cognome il progetto finanziario che si vuole raggiungere, ridimensiona o comunque contribuisce un po' a tenere sotto controllo l'emotività del risparmiatore? Argina un po' le paure? Questo è un elemento fondamentale. Non esiste il risparmio o l'investimento per avere un rendimento. Esiste sempre il risparmio e l'investimento per un obiettivo. Proviamo a fare semplicemente un esempio. Nel momento in cui io ho 40 anni e incomincio a pensare, perché è l'età in cui incomincio a pensare allo studio dei figli, al futuro dei miei figli, incomincio a accumulare, a risparmiare pensando a quelle che sono le loro esigenze. Esigenze che si matureranno magari in un arco temporale di 10 anni. Se io tengo fermo questo elemento e quindi nel momento in cui vado a guardare il mio investimento e parto dal concetto di ricordarmi che tra 10 anni avrò bisogno di quell'aspetto, la volatilità che non stiamo vivendo oggi sui mercati, perché i mercati comunque sono stati molto stabili in questo momento, quando arriverà mi spaventerà sicuramente di meno, perché potrò appoggiarmi sulla consapevolezza del fatto che ho un orizzonte temporale che mi permette di non guardare il fatto che il mercato stia perdendo il meno 5 e il meno 6 nella giornata di oggi rispetto alla giornata di ieri, e soprattutto avrò conforto da quelli che sono gli elementi storici, guardando dalla storia dell'economia in avanti, che dimostrano come gli elementi di volatilità sono elementi temporanei che con un corretto approccio agli investimenti vengono superati, anzi... Possono sono esattamente anche un pochino di opportunità. Sono assolutamente un'opportunità. Nel momento in cui io mi ricordo ho bisogno tra 10 anni, il mercato va giù, se ho costruito correttamente ho le capacità in quel momento di investire e aumentare poi il valore che porterà. Sono messaggi non sempre facilissimi da trasmettere, per questo che c'è anche la settimana mondiale dell'investitore, ne parleremo nella seconda parte. Abbiamo diverse telefonate, Deborah. Già, infatti non so. Vedo, mi fa molto piacere stamattina. Cominciamo, andiamo in ordine alfabetico magari. Angelo dalla provincia di Pavia, buongiorno Angelo. Grazie, buongiorno. Ci faccia la sua domanda, ci dica. Sì, io vorrei sapere dall'esperto se l'acquisto di titoli azionari di risparmio, penso ad esempio a certi assicurativi o bancari, sono una valida alternativa all'acquisto dei BTP. Grazie. Glielo chiediamo subito, dottor Fontanarrava. Allora, vabbè, oppure ci vuole studiare un attimo, dottor Fontanarrava. Insomma, le azioni di... lui è andato proprio su... sullo specifico. Esatto, infatti. Allora, io partirei dall'alternativa. L'alternativa sono i BTP e l'alternativa sono non la costruzione di un valore, il mantenimento magari di un valore. Stante quelli che sono i rendimenti, io sicuramente difficilmente riesco a costruire una progettualità di valore e quindi incremento del valore del mio investimento utilizzando quelli che sono i titoli di Stato. Quindi i titoli azionari di risparmio vanno bene. vanno bene sempre collocati in un corretto elemento di ampia diversificazione degli investimenti. Comportano dei rischi, il singolo titolo comporta dei rischi, questo lo si dice, lo si è detto sempre storicamente. E anche qui, tornando all'esempio della ricerca di Einaudi, se noi guardiamo la risposta che danno gli italiani, dicono che nel 52% dei casi non hanno alcun tipo di diversificazione nel loro portafoglio e solo nel 5% dei casi dichiarano di avere un'alta diversificazione. In sintesi la risposta è: possono andare bene questi titoli? Assolutamente sì, se sono collocati all'interno di un portafoglio molto più diversificato, sia in termini di caratteristiche di prodotto, sia in termini di logiche di rischio. Grazie, dottor Fontanarava. Abbiamo Giuseppe dalla provincia di Roma. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, complimenti per le vostre trasmissioni in generale. Grazie. Allora, io volevo sapere questo, è qualche anno che sto seguendo l'evolversi del Bitcoin, la moneta virtuale che tutti sappiamo più o meno che cos'è, e mi chiedevo insomma Giuseppe, non ci scommetterei proprio, sul fuoco non ce la metterei, esatto. Ecco. Allora, comunque, tanto io non sono un esperto del settore, quindi probabilmente riguarda anche molte persone che ne hanno soltanto sentito parlare. Dopodiché la domanda è questa: allora, sono domande collegate, sarò velocissimo. Allora, si può considerare investimento un acquisto di Bitcoin, che è una moneta virtuale, considerando che nel mondo, a parte il dollaro, non sembra che ci siano altre monete che possano parlare di essere globalizzabili? E poi, ultima domanda, scusate la... Veloce, prego. Se il mondo interbancario, oggi, domani, così, anche soltanto per intuito, può prevedere di avere a che fare con questa moneta virtuale, cioè le monete fisiche che sono quelle stampate dalle banche centrali, delle banche nazionali, e invece una moneta virtuale. Allora facciamo una cosa, Giuseppe, per questa seconda riflessione che ci richiederebbe una puntata speciale, gli possiamo mandare l'edizione speciale di Plus, che ha fatto tutta un'indagine sui Bitcoin, no Mauro, paio di settimane fa non ne avevamo parlato. Pochissime settimane fa avevamo parlato anche, esatto, in trasmissione. Lo mandiamo al nostro ascoltatore. Su Bitcoin come strumento di investimento ci riserviamo di rifletterci un secondo. Sì, perché ne parliamo dopo i mercati. Debora, le borse! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Questa non me l'aspettavo, le trova tutte lui, non c'è niente da fare. Sempre Marco più... Lombardo è veramente un cercatore di pepite musicali. No, la pepita questa volta l'ha trovata la Giulia Lauricella. Ma bravissima Giulia, ma ci congratuliamo ma con lei. Ma saranno così un po' i tuoi stimoli musicali. Tra l'altro c'è un ascoltatore preoccupato perché addirittura dalla voce non ti riconosceva e mi ha chiesto, avete cambiato conduttore o sempre Meazza quello che parla? Allora è Meazza con il raffreddore, però devo dire che secondo me Peter Bescapè, che è geloso, mi altera anche un po' il microfono di modo da farmi fare cattiva figura. Dopo gli vado a dare due sberle così a me, povero Peter. Allora, dottor Fontanarava, questa mattina abbiamo Investire Informati e c'è sempre maggior curiosità tra la platea degli investitori nei confronti del mondo delle monete digitali, virtuali e i Bitcoin. Allora, un ascoltatore chiedeva se è il caso di puntare come investimento sul mercato dei Bitcoin. Noi raccomandiamo molta prudenza. Allora, sicuramente il tema dei Bitcoin è un tema molto, molto interessante, affascinante, ma anche che ha tantissime incertezze, tantissimi lati oscuri rispetto a quelle che sono le caratteristiche. In termini di logica, di pensare che questo possa diventare in qualche modo una forma di valuta sostanziale alternativa, questo dipende realmente dal fatto che ogni valuta al mondo esiste per una logica di scopo di mercato reale. Oggi i Bitcoin non hanno questa declinazione. Guardandoli da un punto di vista di investimento, sicuramente guardando i numeri della crescita che hanno fatto, uno potrebbe essere attirato e affascinato da questi rendimenti. Ma ci sono delle spaziali. Giornate anche di precipizio importante. Però stiamo parlando di un mercato che è assolutamente molto molto speculativo, estremamente volatile, non regolamentato, le cui certezze e caratteristiche devono essere considerate potenzialmente anche all'interno di un portafoglio, ma come una minima parte della parte di diversificazione del portafoglio del cliente, alternativi a altre forme di investimenti. Insomma, la tua Fontanarava. qui è un po' come andare sul lotto volante. Se non avete paura delle discese ardite, delle risalite, per restare in termini musicali, potete anche mettere qualcosa sui Bitcoin. L'importante è che sia una cosa contenuta e rispetto poi a un portafoglio ben diversificato, dove possono essere assorbiti anche delle perdite importanti. Sicuramente oggi non rappresentano un asset class sostanziale sulla base del quale costruire sostanzialmente il proprio risparmio. Attenzione anche alle piattaforme truffaldine che offrono questo tipo di investimento, perché il mondo finanziario ne è pieno, purtroppo. Quindi ribadiamo, questo è un mondo non regolato. A volte non funziona quello regolato, è regolamentato, disciplinato, vigilato. Figuratevi quello che ancora sfugge alle maglie della vigilanza e del controllo, per cui fate attenzione. Allora, a proposito di regolatori, bravissimo, la signora Consob, proprio in questi minuti è in corso a Roma un'importante conferenza stampa nel corso della quale viene presentata la settimana mondiale dell'investitore. Si parte il 2 ottobre fino all'8 ottobre in tutta Italia, tantissime iniziative. Allora, noi abbiamo chiesto proprio poco fa a Giuseppe D'Agostino, vice direttore generale della Consob e coordinatore della settimana mondiale dell'investitore, quello che succederà nei prossimi giorni e qual è lo spirito di questa settimana mondiale dell'investitore. Sentiamolo. La settimana mondiale dell'investitore è un'iniziativa coordinata dallo IOSCO, che è l'Organizzazione Internazionale Autorità di Controllo dei Mercati Finanziari, e si posiziona all'interno di un piano internazionale di attività formative sull'educazione finanziaria diretta al grande pubblico, quindi sia giovani sia adulti, in relazione a quelle che sono poi naturalmente l'esigenza dei target sociali di riferimento. Per l'Italia la Consob si è assunta in quanto membro dello IOSCO l'incarico di promuovere l'iniziativa stessa, che ha come sua caratteristica principale quella di essere rivolta non soltanto al grande pubblico ma anche estesa nel territorio. Da qui l'esigenza appunto di coordinare un gruppo di volenterosi, associazioni e altre organizzazioni del settore, per esempio la FEDUF, la GLT Foundation, il Museo del Risparmio, il Laboratorio di Finanza del Politecnico di Milano, la Piattaforma di Educazione alla Matematica per gli Studenti REDOC, oltre all'Associazione dei Professori dei Mercati, dell'Economia dei Mercati ed Intermediari Finanziari, e anche l'ANAF, che aveva che aveva già in piedi un progetto di alfabetizzazione per le scuole. Ora, tutti insieme abbiamo declinato un programma di iniziative molto articolato, ci sono spettacoli teatrali, lezioni interattive, conferenze, sia presso le università sia presso le scuole. Sono coinvolte oltre 50 scuole secondarie su tutto il territorio nazionale. Sono state interessate oltre 20 università, hanno aderito circa 30 docenti universitari specializzati in economia e gli intermediari dei mercati finanziari, che sono associati appunto alla DEINF. Sono previste oltre 70 iniziative nel corso della settimana e gli eventi saranno realizzati in 50 tra città e comuni, perché anche la provincia è stata considerata, con una buona copertura del territorio nazionale. Quindi in sostanza questo è un contributo che la Consob, col coordinamento di questi soggetti, vuole dare in risposta a quelle che sono le problematiche evidenziate da tutte le indagini nazionali e internazionali, cioè sul basso livello della stabilizzazione finanziaria. Quindi il messaggio è passare dalle analisi, dalle diagnosi impietose a un'azione di contrasto, chiaramente avendo ben in mente che questo tipo di attività va condotta con organicità, sistematicità e con lunghezza temporale, quindi non accontentarsi soltanto degli eventi, ma avendo in mente che questo schema di gioco che ha unito Consob con questi soggetti possa essere replicato anche in altri periodi. A microfoni spenti ho fatto una battuta col dottor D'Agostino e gli ho detto: insomma, anche per il vostro lavoro bisogna aspettarsi un risultato di lungo termine, non di breve termine, non andare subito a caccia del rendimento veloce delle prime iniziative che mettete in campo. È vero, però guarda, proprio il dottor D'Agostino diceva appunto dei giovani, l'educazione, sì, eccetera. È una cosa che vorrei chiedere al dottor Fontanarava, ma invece i giovani come si comportano? Perché ovviamente sappiamo delle difficoltà anche di arrivare a un momento di entrate stabili, non diciamo di lavoro dipendente ma o di lavoro autonomo, ma proprio di stabilità delle entrate. Allora, rispetto agli investimenti, come si comportano, che propensione hanno? Ma i giovani rispetto alla logica degli investimenti diciamo che potremmo dire che sono un po' come lo sono nei confronti della politica, sono un po' disillusi e confusi, nel senso che quelli che sono i parametri che possono aver ricevuto in termini di educazione da parte della loro famiglia un po' non esistono più, perché il mercato è cambiato sostanzialmente in modo assolutamente significativo. A mio parere sicuramente l'educazione finanziaria è un tema fondamentale. La parola stessa educazione finanziaria spaventa un po', no? Bisognerebbe parlare di consapevolezza economica nei confronti dei giovani, che è un qualcosa di molto diverso, perché educazione finanziaria dà l'idea di un qualcosa che nozionistico, non sia parte del loro vissuto, no? Se guardiamo un elemento fondamentale per quanto ci riguarda, che è il tema previdenziale, per esempio, dove sappiamo molto bene che ancorché ci sia una logica di crescita, c'è una sottoscrizione che è ancora solo al 17%, il 19% soltanto delle persone dichiara di ritenere di avere una situazione a livello pensionistico adeguata, comprendiamo che il concetto di educazione finanziaria è un pochino lontano, perché per i giovani la logica della pensione è un qualcosa che non è proprio in modo, sarebbe innaturale posizionarla in questa maniera. Al contrario, partire con una logica di risparmio, ancorché piccola, con un anno di anticipo rispetto a quello che faccio oggi, già quello determina un risultato enorme in termini di potenzialità di costruzione di un valore. C'è una sfiducia, perché ovviamente uno vede che negli anni poi tende a salire l'età per il ritiro, però teniamo presente che le forme invece di risparmio o collettivo, come i fondi pensione, o anche individuale, possono garantire quantomeno una copertura, perché certo quando uno è giovane magari non è portato a pensarci, ma vengono anche passata una certa età i momenti di stanchezza o di difficoltà, ci subentrano altre esigenze, allora lì fa comodo aver accumulato per tempo. Esatto, e poi non ci dimentichiamo anche i vantaggi fiscali che hanno queste forme di investimento, che molto spesso si tendono appunto a trascurare e a non considerare. Allora, per gli studi di mia figlia, ci racconta un ascoltatore, io invece ho sottoscritto un BTP scadenza 2029 pagandolo pochissimo, perché il nostro ascoltatore ha avuto il coraggio di sottoscriverlo quando lo spread era a 500 punti base. Il mio consulente finanziario mi suggerisce di venderlo, di disinvestire. Io non voglio, perché quell'accantonamento ha uno scopo preciso. Dottor Fontanarava, lo studio dei figli, tutto collocato in un BTP, che sicuramente adesso rende perché l'ha comprato in un momento favorevole. Allora, diciamo che sicuramente è stato molto bravo, nel senso che senza paura è riuscito a investire in un momento nel quale le logiche degli spread potevano far pensare invece a una perdita totale di quello che poteva essere l'investimento. E sicuramente quindi è una ottima forma di investimento, però bisogna tener conto una cosa. Portandolo alla scadenza, io sicuramente mi porto a casa quello che è il rendimento che questo BTP mi sta generando, però perdo l'opportunità della capacità che ha avuto l'investitore di sottoscriverlo con lo spread a 500, perché arrivando verso la fine sostanzialmente questo valore che oggi ha di mercato si riduce. Conseguentemente, se vuole massimizzare il coraggio che ha avuto di investire in quel momento, è corretto disinvestire e creare una diversificazione di investimento di portafoglio in modo tale da far funzionare e quindi far creare valore anche quella parte di rischio che lui si è preso pigliando i 500, cioè, che si trova inaspettatamente un tesoretto adesso. Aspettando la fine non lo incasserebbe, insomma, incasserebbe solo la cedola, ma non il valore del coraggio che ha avuto. Monetizza quindi il suo atto di coraggio, insomma. Esatto. Allora sì, è il momento, è il momento di fermarsi, però prima di fermarci per le informazioni sulla viabilità, certo, volevo ricordare che il giovedì è il momento del domandone, quindi se no qua, dopo il domandone state lì pronti con l'800240024, perché vi daremo il domandone. Sono stata un po' cattiva stamattina. Sei stata cattiva? Un po' ritengo di sì, però è una cosa che io so, potrei saperla. Altro che ce l'hai sotto gli occhi, no? Ma magari daremo il famoso aiutino che ad ogni quizzettone non si fa mai mancare, no? Va bene. Quello e di allora Raffaella Carrà, dei fagioli, quello là, insomma. Allora, pronti tutti, ma dopo il traffico. Due di denari. Ci siamo il domandone. Allora 800240024 per rispondere. Lo favorisci tu o lo favorisco io ai nostri ascoltatori? Lo favorisco io, che non so neanche la risposta. Ma dai, che la sai. Vabbè, comunque vai. Leggo testualmente. Vogliamo sapere da voi cos'è. Perché l'ha detto il dottor D'Agostino nella risposta alla nostra domanda. Abbiamo chiesto di raccontarci che cos'è la settimana mondiale dell'investitore e lui dentro ha detto una cosa, ecco, che speriamo abbiate se sentito. Siete stati attenti, lo sapete. E allora vogliamo sapere cos'è la IOSCO. Benissimo, quindi il numero verde se volete portarvi a casa o il CD dei Chapter 11 oppure un libro della nutrita biblioteca di due di denari, noi siamo pronti, i più bravi naturalmente lo riceveranno. Preferiamo ricevere le risposte al numero verde, ma visto che siamo stati cattivelli magari accontentiamo qualcuno anche all'SMS. Dottor Fontanarava, le faccio sentire ancora un'ultima considerazione del dottor D'Agostino di Consob sul tema delle nostre scarse conoscenze finanziarie e quali che tipo di problemi questa nostra lacuna più volte denunciata appunto comporta anche nelle scelte di investimento degli italiani. Sentiamolo cosa ci ha detto. Gli argomenti sono già tracciati. Il primo è l'importanza della corretta pianificazione finanziaria personale, a partire dalla gestione delle spese familiari fino all'impiego del risparmio, e questo in relazione ad obiettivi che vanno posti in un'ottica intertemporale, quindi nel breve periodo, nel medio periodo e nel lungo periodo. L'esigenza è di evitare appunto che questo risparmio fosse mal utilizzato, appunto compro l'auto molto costosa con tutti i risparmi, questo non mi garantisce successivamente l'utilizzo di questi risparmi per esempio per formare l'istruzione dei ragazzi piuttosto che per l'acquisto della casa. Allora la conseguenza delle nostre scelte attuali nel futuro è un punto importante quando si assumono decisioni. L'altro secondo aspetto è il momento particolare, direi contingente, delle scelte di investimento finanziario e risparmio, e qui non bisogna farsi ingannare da quelle che sono le trappole comportamentali, la proposta di rendimenti elevati senza guardare a rischio, la liquidabilità dell'investimento quando ho esigenze di breve, oppure il concetto stesso di rischio, che può essere sia di tipo oggettivo, non ho la capacità economica finanziaria io come individuo di sopportare una perdita, piuttosto che non ho la capacità emotiva di sopportare la perdita. Entrambi sono componenti importanti della tolleranza al rischio. Il tema della sopportazione della perdita forse è quello che riguarda la nostra ascoltatrice, Mauro. Angela da Savona, sentiamola. Buongiorno, ci scusi dell'attesa. No, niente, grazie a voi. Buongiorno. Buongiorno, ci dica. Io sono una signora di quasi 80 anni. Sì. E premesso che non ho bisogno di questi soldi. Io avevo 3 anni fa il mio consulente mi ha detto di fare dei fondi. Io neanche sapevo come fossero, poi mio genero mi dice sì, li ho fatti anch'io, eccetera. Però ho visto che ogni volta sono mensili, quasi tutti sono una 6 o 7 le cedole, e 2 sono semestrali. Ce n'è una, non so se posso dire i nomi, perché me la ricordo a memoria, Mundi, Axa, sempre. Vabbè, insomma, un portafoglio di fondi, vabbè, insomma, diciamo che le case scelte sono abbastanza riconoscibili e anche blasonate, direi, Angela. Però lei non è molto soddisfatta di come stanno andando? No, perché vengono le cedole, perché tutti i mesi, siccome io non ho computer, niente, che sono anziana, non sarei capace, mi arriva tutto il cartaceo e io lo esamino, ogni volta c'è una diminuzione del valore di queste cedole, ma da un po'. E allora il mio consulente mi dice, ma vedrai che poi, perché lo conosco, un ragazzo, eccetera, vedrai che poi si mette a posto, eccetera, eccetera. Però volevo anche dirle che oltre, non so, su una Mundi che mi dà 8,82 al mese, e mi arriva, c'è scritto che c'è la tassa fiscale di 2,32, no? Quindi al netto mi dà 8,82. Allora Angela, guardi, abbiamo 3 minuti, 2 o 3 punti li abbiamo raccolti. Se lei ha pazienza, se si fa aiutare dal suo genero, se ci scrive magari possiamo esaminare un po' meglio la sua situazione, senza pretese di fare consulenza finanziaria naturalmente, tanto per capire un po' meglio e darle una risposta un po' più soddisfacente. Tanti temi qua, dottor Fontanarava. Sì. Il fondo la cedola, che è quella che cerchiamo sempre tutti, e quindi cerchiamo tutte le alternative al BTP. Un'ottantenne è un pacchetto di fondi di investimento, ci metterei anche questo di aspetto. Certo, beh allora, sì, ci sono tanti temi. Sicuramente intanto complimenti al suo consulente finanziario, perché un 8% di rendimento non è cosa di tutti i giorni in questo momento relativamente a un prodotto. Infatti, però nella stessa maniera non va guardato questo come se fosse una logica di riferimento corretto di mercato. Sicuramente il tema dei prodotti a cedola è un tema che riguarda la caratteristica dei prodotti che rispondono specificatamente a delle esigenze. Allora, nel caso specifico dell'ascoltatrice, immagino che questa logica di portafoglio abbia l'obiettivo di completare quello che è il reddito sostanzialmente che percepisce, e conseguentemente è allocato correttamente in una logica di distribuzione. Il motivo per cui sostanzialmente la cedola stia diminuendo è perché, anche in questo caso mi sento di dire probabilmente correttamente rispetto alle esigenze della cliente, è stata scelta una logica di cedola variabile che non vada ad intaccare sostanzialmente quello che è il patrimonio investito. Ci sono forme di prodotti a cedola con rendimenti fissi che però, stante quelli che sono i rendimenti di mercato, intaccano pesantemente il capitale, così che Investo 100 e poi quando... E anche molto contestati per questo naturalmente, sì, però esatto. Se si sanno però, le condizioni. Però anche questi prodotti possono rispondere a esigenze precise, quindi se io ho la certezza come cliente di aver bisogno di un determinato importo, anche questi prodotti sono adatti a rispondere a questa esigenza. Se invece è una logica di completamento, il fatto che stiano scendendo i rendimenti è determinato dal fatto di evitare di andare a intaccare il capitale. Ed è corretto pensare che nel corretto orizzonte temporale questo valore lo andrò a recuperare sostanzialmente nel valore assoluto dell'investimento del patrimonio che ho. Però detto questo, forse per una signora un po' matura magari andava suggerito, a mio parere, una soluzione di investimento un po' più conservativa e protettiva del capitale, più che spalmata su tutti i mercati finanziari. Poi questa è la mia idea, magari mi trovo con il consulente, mi prende anche invitiamo... a sberle e dice: ma lei, ma tu che ne sai della mia cliente? Giustamente, non ne so. Invitiamo di nuovo la signora a scriverci per poterle dare qualche indicazione più complessiva. Intanto c'è Dino da Lecce che vuole rispondere al domandone. Chissà Dino. Se vuole il libro o il CD, ma Dino. Pronto, buongiorno, sì. Buongiorno. Che cos'è la IOSCO, veloce? La IOSCO è una specie di Consob internazionale dove deve controllare tutti i mercati, insomma, internazionali. Sì. È l'organizzazione che raccoglie le autorità di regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari di tutto il mondo. Bravo, tutto Dino. Tutto il mondo, sì. Preferisce Dino il libro o il CD? Io ho seguito tutta l'estate il Serpente Corallo. Ah, grazie. E le mandiamo il CD dei Chapter 11. Grazie Dino. Grazie Dino. Ad Edoardo Fontanarava per essere stato con noi. Ci rivediamo, speriamo presto. Grazie molte. E te ci vediamo domani, anche fra 5 minuti. Volentieri, magari caffè. Anche meno raffreddato. Ma vedi un po' di curarti un po' meglio, sennò qua ci spalmi i tuoi microbi ovunque. E noi invece dobbiamo essere sempre in forma per Due di Denari, che torna domani. Buona giornata.